mejor, pintando mi vida en un otro color. Immaginare un altro me non è proprio facile. Ho una tela bianca per